storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera. Buonasera a tutti voi cari ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio. Stasera abbiamo un ospite in studio. E l'ospite di questa sera è uno scrittore di romanzi e anche un poeta, scrive anche poesie, direi veramente molto molto belle. Poi lo salutiamo, perché sai, adesso do la parola a te, se no... Per i nostri parametri, naturalmente, certo. Un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per gli sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro è il 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista che oggi è il nostro Mirko. Naturalmente, sì, allora Mirko, noi salutiamo il titolare. Salutiamo Mirko e salutiamo anche Eddie, che se ci ascolterà salutiamo anche lui. Eddie che sta male. Speriamo che si riprenda presto. Speedy recovery, come dicono gli anglosassoni. Lo sapete che adesso... Non si usa più il www davanti al sito? Sì, diciamo che è un'evoluzione, poi ci sono il cambio di domini, eccetera, ma noi naturalmente ci curiamo poco di queste innovazioni. Ma io l'ho saputo l'altra sera e ho provato, infatti basta scrivere il nome del sito. Una semplificazione, diciamo. E tutto così va a posto. Beh, insomma, sì, ormai era noioso, www. Bene. Allora, cominciamo con la prima canzone che poi presentiamo l'ospite. La prima canzone in programma questa sera è cantata da Gino Becchi ed è intitolata Al telefono con te. Come dolce qualche volta conversare segreto di quel filo confidare, quel che a voce sempre facile non è. Dolce filo, misterioso, malizioso legame d'amor, che ci tremo se mi porta la tua voce, poi chiudo gli occhi e come in sogno vedo te. Dolce filo, misterioso, delizioso legame d'amor. Quante volte nella notte silenziosa, mentre veglio dolcemente penso a te, poi lo sguardo sul telefono si posa, ma la voce tua non giunge ancora a me. Tremo se mi porta la tua voce, eccoci di nuovo in studio per presentare il nostro ospite, che come ho detto prima è il signor Mauro Zanatto. Buonasera Mauro. Buonasera Mauro. Buonasera. Bentornato, perché so che sei, ricordo che sei stato anche nel 2010, mi pare, alla fine, sì, del 2010, e anche nel 2011 sei stato, quindi sei ormai un vecchio, una presenza ricorrente. Ecco, appunto. Però siccome so che il 30 novembre hai presentato un tuo libro, oggi dobbiamo farlo sentire anche ai nostri ascoltatori, farlo conoscere anche ai nostri ascoltatori. E com'è intitolato il tuo libro? I segreti del fiume Storga, fra parentesi, terza risorgiva a sinistra. Ci spieghi un pochino il titolo? Sì, parla dell'ospedale, l'ex ospedale neuropsichiatrico di Sant'Artemio. È una favola romanzata, diciamo, parla di un ragazzo down, dei gatti che parlano, di un merlo che parla, delle anguane, del diavolo mazzariol, tante cose insomma. Deve essere anche divertente. Reminiscenze di epoca contadina, quindi. Stranamente è anche comico, dico stranamente perché io non ho una tendenza molto comica, però è comico e mi sono divertito parecchio a farlo. Immagino. Comunque adesso prima leggiamo un po' l'introduzione e poi leggeremo qualche passo del libro. La prefazione è di Renata Alberti, nota amica, nostra poetessa. Sì, anche quella è una nostra cliente, assidua, diciamo. Un sussurro, una parola appena pronunciata, dipingono la notte da alghe lucenti, mentre le note d'una musica salgono oltre l'inferriata dei sogni, si disperdono nell'aria di fumo. Le emozioni nel lettore rimbalzano già dall'incipit di questo romanzo, o meglio, dentro questa fiaba romanzata dell'autore Mauro Zanatto. Questo libro era già disegnato dentro i suoi primi lavori, il romanzo L'orologio a cronometro e la silloge poetica Controluce. La trama si tesse nei luoghi dell'infanzia e della giovinezza dell'autore, lungo il fiume Storga, con il suo fascino di risorgiva, dove egli, da bambino, ha potuto liberare fantasia e immaginazione e nella maturità dare vita a mille storie e a costruire questa veramente strana, talmente strana, che racconta di due gatti sopra i tetti dormienti, intenti a ritrarre la luna con pallide ombre simili a lunghe trecce di fata, per farti capire che nulla è così lontano. L'autore sa legare prosa e poesia, sa poetare con l'anima, tanto da riuscire a umanizzare gli animali, a farli diventare amici di due balordi che vivono in un ex ospedale psichiatrico e a inserirli con lievità nell'universalità della natura quando incontrano una fata anguana. Ma chi sono le misteriose anguane? Il loro segreto lo conoscono solo le nuvole, che lo svelano agli umani quando si scontrano in cielo. Cadono e risorgono vestite con evanescenti abiti di vapore in misteriose figure di fiaba. Con una scrittura poetica, l'autore sa farci godere nuove emozioni, descrivendo il fiume e il suo affluente piavone. Un profluvio di immagini, sprazzi di saltellante luce nell'acqua, scaglie smeraldine nella corrente, nelle curve femminili del corso. Mauro sa capire e per questo tradurre il linguaggio di Palmiro, un ragazzo down, abbandonato alla nascita, ma abituato a riaccendere saltellanti pensieri e a rimescolarli, per vincere solitudine e diversità come carte da gioco, rifacendo il mazzo più volte prima di disporle sullo scivoloso tavolo della memoria. Raramente le parole danno valore aggiunto alla musica. Palmiro, il diverso, l'altro, lo sa e usa la sua voce, nascosta dietro una maschera, e la dona a chi come lui è stato sfortunato. L'uomo è quel qualcosa di più, molto di più, e oltre quel più c'è il talento. E chi non lo ha non sa di possederlo, perché questa dote è un gioco, un semplice gioco nato dall'animo di un bambino. Mauro sa essere il critico del suo protagonista, l'amico Arturo, inconsapevole interprete copista del grande Ligabue, e sa far intuire ai due gatti inseriti nella storia, Casimiro e Alfredo, grazie all'amicizia talmente grande e profonda con il ragazzo, cosa nasconde una solitaria lacrima scivolata dai suoi occhi. Libro aperto, carico di sogni, privo di inutili punteggiature. L'autore, in questo racconto, fa calare i protagonisti dentro un incanto. Li fa penetrare nella magia dell'acqua in creazione, ovvero diventare parte integrante di un indescrivibile tracciato. Un accordo della natura che non riescono a decifrare. Mauro, come Palmiro, è un uomo stanziale che sa vivere e gioire delle cose semplici. Della famiglia che ama e rispetta, del gatto che lo segue come un'ombra, del suo giardino con il secolare albero al centro che gli offre sicurezza e saggezza. Un uomo che coltiva personalmente con passione un fazzoletto d'orto e trasferisce con semplicità ma con grandezza di pensiero e filosofia della vita l'equilibrio di questo lavoro nella risposta dell'ape Amalia. Perché accelerare il tempo, precedere l'incedere sicuro della natura? Intendiamoci, perché, mi chiedo, dare troppa importanza all'apparire quando il suo essere sta nella maestosità della chioma che dipinge il cielo? Non sempre un autore sa esprimere con immediatezza il suo essere di poeta, pittore, musico. In questa fiaba, veramente strana, talmente strana, praticamente strana, assolutamente strana, Mauro, da pensatore vagabondo qual è riuscito a farlo. Bene. Ascolta Mauro, sento che parli di fatti, di gatti parlanti, ti sei ispirato un po' alle Mille e una notte? No, assolutamente. No, sempre. Ti dirò, non l'ho neanche mai letto. Ah no? Sì, è una lacuna che ho. Io mi sono proprio presa la briga di leggerlo, adesso l'ho quasi finito. Non è un libro casereccio. Mi sono divertita un mondo. Beh, ma è un libro qui de no altri. Sì, però siccome parli di gatti parlanti... Storia de no altri. Io parlo spesso con i gatti, parlo, cioè comunico. Aspetta, quanti ne hai tu che non mi ricordo? Due? Ne avevo tre, adesso uno è defunto. Oh, poverino. Recentemente. Ah. Sì, comunque... Allora, il brano che abbiamo da leggere, o mettiamo una canzone, cosa dite? Beh, direi che può andare una canzone. Sì, ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è cantata da Biagio Antonacci, ed è Buonanotte. Va va va va va va va va va va va. Buonanotte, buonanotte a te che non dormi mai avvolta dai tuoi guai. Buonanotte, non ci pensi più a chi va su e giù, a chi non dorme più, per chi guarda la TV. Anche se ormai non trasmette più, chiudi gli occhi ma perché non lo sai che così puoi vivere di più. Fai ra fa fai fa fai fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Buonanotte, musica mania, più la mando giù e più mi tira su. Buonanotte, anche quando ci sei tu, fai le fusa sì, ma poi chi dorme più? Sì, pronto, ma chi è? Che ora è? Le tre? E poi rimette giù, oh, fra le cose che vorrei, ci sei tu, lo sai, tu che non dormi mai. Fa ra fa fai fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa Ah, eccoci di nuovo in studio e continuiamo con il nostro Mauro e Antonio. Allora, ci leggerà un pezzetto, sì, del nuovo romanzo Il sogno premonitore. L'invadente sole era giunto allo zenith. Palmiro aveva già terminato due lunghi solchi, deposto i semi dei fagiolini nani, s'avviava al reinterro. A tratti guardava l'orizzonte, dell'amico non c'era traccia. Al suono della campanella andò a pranzo nel refettorio adiacente alla rimessa e, a parte la solita ventina di residuati bellici, non trovò né il gnagno né Arturo. Mangiò velocemente e ritornò nei campi ad ultimare il lavoro. Le sere di inizio primavera arrivavano improvvise, portano con sé i primi umidi profumi, l'ultimo dispettoso vento di tramontana. Così, controvoglia, il ragazzo depose gli attrezzi avviandosi verso la palazzina, senza soffermarsi alla mensa, direttamente verso il dormitorio. Trovò Arturo disteso sul letto, completamente vestito, con il volto perlinato di sudore. Prese un fazzoletto dal comodino, gli deterse il viso e slacciò le scarpe lasciandole ai piedi del letto. «Arturo, che cos'hai?» Il compagno rantolò nel dormiveglia qualche parola mista a una tosse stizzosa. «Gira, gira, e sì che gira!» «Gira cosa?» «Il letto gira, sono sopra una barca, soffro il mal di mare!» Palmiro capì che era ubriaco fradicio. La bocca esalava un acido odore d'alcol e vomito. Prese il copriletto e lo distese sul corpo del compagno. «Dormi ora», disse. Arturo gli afferrò la mano. «Adesso devo vincere queste onde, poi andrò a vedere cosa combina quel sciagurato di Ligabue. Non preoccuparti, non succederà nulla. Palmiro, c'è la luna piena, sta discendendo le scale del buio». «Un morto ha ben altro da fare. Buonanotte!» «Aspetta, domani mattina dobbiamo parlare». «Se è per il viaggio, capitolo chiuso», disse scivolando dentro le coperte. Ripulì la mente dalle scorie del giorno, s'addormentò, leggero come un seme di tarassaco, conquistò il sogno. L'attimo fu un trucciolo di legno che apparve dalla pialla, scarto al servizio della pura immagine. Il minuscolo pezzo di legno divenne un'imbarcazione, una vecchia tartana persa nella distesa d'acqua dolce. La luce di un astro nascosto sobbalzò sull'onda. Ebbe la sensazione d'essere ritornato sul lago sotterraneo. «Macaco! Pittore da strapazzo! Hai modificato il dipinto e adesso vuoi cambiare anche la mia vita!» Verso poppa sentiva un vociare familiare. Arturo sbraitava un tipo smilzo che indossava una buffa camicia rossa. Questo, con rapide movenze, si era arrampicato impavido sopra l'albero maestro. «Smettila di dipingere vento e nuvole! Voglio ritornare sulla terraferma!» Seduto su una botte, il gnagno sorseggiava un liquore. «Su via, Palmiro, vieni a bere!» lo invitò il vecchio. Al suo fianco Casimiro e Alfredo miagolavano in preda all'agitazione. «Fa un po' schifo questo intruglio, ma piuttosto dell'acqua. Vieni qua, avvicinati, lascia stare quei due pazzi». «Che ci facciamo qui?» chiese il ragazzo. «Non vedi? Siamo in preda ad un sogno, quel dannato di Arturo si lamenta per nulla. Basterebbe uno schioccare di dita, dall'esterno intendo, e tutto sarebbe risolto», continuò il vecchio. «Ligabue, vien giù! Smettila di dipingere tempesta! Il lago ingrossa, finiremo a picco!» sbraitava inviperito Arturo. «Ligabue?» fece Palmiro disorientato. «Certo, Ligabue! Sta facendo il suo lavoro, ma non ha ancora la tinta giusta. Prima o poi troverà la soluzione», proferì il gnagno tranquillo. «Quale soluzione?» «Che te ne frega, siamo in un sogno!» Arturo, sempre più agitato, continuava a lanciare verso l'alto tutti gli improperi possibili. «Sorbole, ho capito!» gridò dalla cima del palo di maestra Ligabue. «Manca il litorale per poter approdare. Di che colore lo vuoi? Fallo verde, azzurro, tinta cacca, ma fallo! Sto vomitando anche l'anima!» Il pittore tratteggiò l'orizzonte, una lunga e alta scogliera verde cupo. «Ti va bene?» gridò. «Viro di poppa verso la costa, tu dipingi un po' di vento, al resto penso io». Arturo precipitò al timone. Con due o tre colpi l'imbarcazione prese la giusta direzione e un forte libeccio trasportò la tartana verso riva. «Sorbole, siamo quasi arrivati. Ci voleva così poco». Che carino. Ma sai anche parlare bolognese? Ma diciamo che insomma mi diletto un po' di dialetti così. Ah, ti piacciono proprio? Sì, molto molto, sono lingue veraci insomma. Pensa, io ho studiato a Bologna diversi anni e avevo preso anch'io un pochino l'accento. Bello. L'accento, Bologna. L'accento molto simpatico. Sì, ma sono simpatici anche i bolognesi, sai? Decisamente. Adesso non so come sia Bologna perché sono anni che non ci vado, ma veramente ho passato i miei anni, sì, non dico i migliori, ma belli. Allora, sai che cosa facciamo adesso, così per variare un pochino? Diciamo che Mauro, oltre a scrivere romanzi, ha scritto questa favola e anche l'orologio a cronometro, però è anche un poeta, come dicevo prima, no? E noi abbiamo qui qualche poesia da leggere. Mauro, sono tratte dalla Silose Controluce queste poesie? Due di quelle che forse leggerai sono tratte da Origami d'Amore, che è un libro inedito. Ah, quindi tu hai già intenzione di... Sì, questi fanno parte di quella raccolta. Ah, quindi siamo prossimi a un'altra presentazione. Io, come sempre, aspetto il ricavato di questo libro, I segreti del fiume Storga, dopodiché affronterò anche l'altro. Ho capito. Beh, ma dov'è che dai i dati a tutte le librerie qui a Treviso, se qualcuno magari vuole? Sì, ci sono tutte le librerie e anche varie edicole. Anche le edicole? Sì, anche le edicole. Quelle le ho dati io personalmente. Ho capito. Allora, leggiamo qualche poesia scritta da te. Cosa dici, grazie, Antonio? Va benissimo. Ne abbiamo preparate 3-4 che adesso leggeremo. Poesie d'amore, vero? Più o meno, no? Poesie d'amore, sì. Sì, a parte Giochi di Laguna. Ecco, che appunto è una poesia un po' diversa. Un po' mistica. Allora comincio io con Amplesso. La natura dipinta nel suo rossastro a arabesco parla. Non sono parole dettate dal vento, ma gocce di pioggia che accendono il seme nascosto. Ascolta. È un canto che schiude l'umida corolla e colora il tuo essere, dipinge. Io sono mille gocce in una. Abito in un arcobaleno che cinge la vita del suo profumo. Accoglimi. Donne, glicini nel primo sbocciare, solo grappoli pendenti che si accendono all'umido calore della sera, avvinti in spirale ascendono lungo il palo nell'arido cemento incarnati, femminili colori dal sottile profumo di vita che nel donare avvolgono e nascondono il grigiore. Con l'avanzare della stagione le prime piogge appassiranno i tuoi carnali fiori per lasciare un rigoglioso verde che tutto materno cela e l'occhio non offende. Bella. Io leggo Risveglio. Pioggia di canti nella mattina d'estate, dove nuvole basse sono raccolte odoranti di vento. L'aria, come disadorna madre, trasporta gli accordi da nido a nido. Accelera un cuore in fermento, sfiora impudente le imposte, ricama secolari chiome, culla ondeggianti siepi nei confini di crepuscolari occhi. Distratto accosto le tende, apro la finestra. L'esangue sole scivola fra le lenzuola ad accarezzare il tuo volto perduto nell'ultimo sogno. Dormi, dormi ancora. Resta eterna nel dipinto. Lascia che l'astro penetri l'anima con dolcezza, regalandoti un'indissolubile giovinezza. E concludiamo con Giochi di Laguna. In te, tiepido manto, io mi ristoro lasciando ad altri lunghi, impervi golfi d'ombre dove l'intrepida vita non mi appartiene. Cerco il sole nel tuo materno mare non troppo fondo, tra isole quasi galleggianti di cespugli ammantate, dove planano e prorompono a frotte gabbiani e aironi cinerini ed il verde smeraldo si trasforma in riflessi porpora, abbandonandosi alla luna quando il giorno muore. In te camminare a pelo d'acqua, come Cristo, lungo le secche e attendere il ritorno assonnato del pescatore che scivola con antica memoria nei canali, perdermi fra il colore giacinto dei cristallini fiori che traducono le parole del sole in tenui colori, farmi risucchiare dall'ultima pennellata d'indaco del cielo tra l'io piccolo e torcello, prima che la foschia arrivi ad addormentare questo metafisico mondo. Belle. Sei poetico, eh? Io tento. Comunque aspettiamo il tuo libro, che spero uscirà prestino. Sì, forse fra un anno. Vabbè. Allora, adesso ti ascoltiamo una canzone, poi faremo un piccolo intermezzo e ricorderemo una poetessa scomparsa 7 anni fa. Ah, a proposito di poeti, di scomparsa, invece qui noi dobbiamo fare gli auguri al nostro Mauro, che giovedì scorso ha compiuto gli anni. Oh, tanti auguri Mauro. Auguri. Grazie. Mauro, i migliori. Ti auguriamo altrettanti di questi, ti bastano? Sì, sufficienti, anche troppi. Comunque tanti auguri, sai. E così. Grazie. Ci ascoltiamo la terza canzone, che è cantata da Gianni Morandi ed è intitolata Ma chi se ne importa. Come avevo annunciato prima, parleremo così pochino, perché dopo riprenderemo a parlare del nostro Mauro, ma volevo così fare un piccolo intermezzo e ricordare una poetessa trevigiana scomparsa 7 anni fa. E il nostro poeta Emilio Gallina, dopo la sua dipartita, ha scritto una bella poesia. E così l'altro giorno, sfogliando le mie poesie, l'ho trovata e gli ho telefonato. Emilio, dico: guarda, cosa dici? Facciamo un piccolo ricordo di Wanda Casellato, però ho bisogno che tu mi scriva un piccolissimo profilo, anche perché io non l'ho conosciuta e lui sì. E così, oltre alla sua poesia, ha scritto due righe che adesso leggeremo, poi leggeremo la poesia. Diciamo che questa Wanda Casellato è stata una figura molto determinante per Treviso, una figura veramente eccezionale. Comunque sentiamo. Parlare di Wanda Casellato, che ha donato a noi tutto di sé nei suoi versi, nei suoi racconti e nel quotidiano correre di giorni con la semplicità di un passerotto e la garrulità di una rondine, richiederebbe ben altro ricordo che mi auguro in un prossimo futuro le sia riservato. Ed eccoci qui oggi per accennare di lei, per un breve ricordo semplice, partecipato, come si fa tra amici. Un memento, infatti. Wanda se n'è andata in punta di piedi il 9 febbraio 2005. Quanti trevigiani ricorderanno Wanda? Il tempo spesso è impietoso, corre rapido verso l'oblio. Wanda Casellato. Quanti aneddoti si dovrebbero raccontare di lei e del suo mondo? L'amato Montello, i Riedi, la dorata cioccolata, i cani, i bambini, i semplici fiori di campo. Come dicevo, molto, anzi moltissimo si dovrebbe dire e narrare di Wanda. Questa minuta figura di donna gentile, discreta, innamorata della vita. Ecco, così adesso appunto leggiamo la poesia che ha scritto il nostro poeta Emilio Gallina, che salutiamo cordialmente assieme alla sua Ketty. Sapete che Wanda Casellato amava moltissimo la cioccolata, amava la cioccolata, amava i cani, ma così mi ha fatto un po' specie di chiamarsi la cioccolata, perché la amo anch'io la cioccolata. Quindi vabbè, allora leggiamo la poesia. Tu, Mauro, non l'hai sentita nominare? Sì, parecchio. E cosa hai detto, che hai letto un romanzo suo? Un romanzo tanti anni fa, E se l'uragano ci rincorre, qualcosa del genere. Dicono che amava tanto i bambini, che era, sì, una figura molto così, sempre di corsa. Vabbè, allora, si sono spenti i tuoi occhi. Dopo voce e mente, anche i tuoi occhi si sono spenti, obliata amica. Ed era di febbraio, una mattina di sole e di luce. Quella che ti inondava l'anima nel tuo solitario smarrirti, folletto, anguana, lungo segreti sentieri e forre e chiarità di boschi e di brevi valli del tuo Montello, inebriandoti di silenzi, sinfonie d'uccelli e mormorio di fronde lieve. È mancata la tua esile figura alle usuate vie della città, rapida nel passo, garrula rondine, eterna fanciulla, bimba tra i bimbi, grande nei tuoi versi. Ti penso serena, Wanda, oltre il tempo umano. Tra le mani il tuo Wickert, cullata dalla celestiale andare delle sinfonie del divino Beethoven, accanto a lui, avverato sogno. Non di addio, ma di arrivederci, questo mio dire, dimenticata amica, e di profonda gratitudine per il dono di te nei tuoi indimenticabili versi. Ecco, così abbiamo ricordato molto, molto brevemente Wanda Casellato, che appunto è morta anche lei dopo lunga malattia, a un'età abbastanza avanzata. Allora, prima della canzone, leggiamo ancora qualcosa del libro di Mauro? Abbandono della maschera. Col passare del tempo, Palmiro era divenuto una star di prima grandezza. I concerti erano trasmessi alla radio e appariva in televisione nelle manifestazioni più eclatanti. Pari passo con la notorietà, anche il guadagno lievitava. Conduceva comunque una vita frugale, donando come concordato con se stesso e Languana i 2/3 del ricavato ai meno abbienti e in particolare agli orfanatrofi. Ritornò più volte nel Dodecanneso, fece tappa a Rodi, rivide suor Guglielmina, la quale, per così dire, rimaneva la sua fata terrestre. Le stagioni, l'una dietro l'altra, erano fuggite seguendo il contorto sentiero della vita. Con il passare degli anni anche la nostalgia s'era affievolita e così i ricordi. Rimaneva nelle narici l'odore dei fontanili, il profumo dei sambuchi lungo le paludose rive. S'era affezionato al maestro Tiralongo come un padre, mentre con Arzillo manifestava l'antica diffidenza. Il merlo era invecchiato dignitosamente e, a parte le sempre più rade svolazzate nei parchi, godeva ancora d'ottima salute. Di certo la parlantina, con l'avanzare dell'età, aveva acquistato maggiore intensità. «Lo sai quanti anni sono passati dalla nostra partenza da Venezia?» chiese un giorno al ragazzo. 4, rispose subito. «Il prossimo aprile fanno 7». Rimase pensieroso. Pensò alla vacuità del tempo, alle singolari esperienze accumulate, il continuo girovagare per il mare senza sosta e senza patria, figlio di tutti e di nessuno. «E pensare che dovevamo star via appena 3 mesi», intervenne il merlo. «Hai dato tutto, il tuo cesto è ormai vuoto», continuò. «Posso dare di più», intervenne il ragazzo. «Caro mio, c'è un limite per tutti, sei una candela che gli è rimasto solo lo stoppino. Per quanto ancora vuoi bruciare? La tua voce non ha più la potenza di una volta, si è affievolita». Non volevo ammetterlo, ma maestro Canterino aveva ragione. Negli ultimi mesi anche il corpo aveva subito un repentino mutamento. Le forze l'abbandonavano progressivamente, sentiva sulle spalle, non ancora 25enne, il peso dei 70 anni. Volle confidare un segreto al merlo. «Sono 15 giorni che nei sogni non appare la mia fata. Sono molto preoccupato». «Fossi in te non mi preoccuperei. Sarei felice. Vuol dire che il suo compito è terminato e noi siamo giunti all'epilogo». Il merlo cercò di rincuorarlo. «Epilogo? Semplice. La nostra missione è finita». «Maestro, mi sta dicendo che la maschera non ha più senso di esistere?» «Sì, non l'aveva prima, tantomeno adesso. È tempo di tornare a casa». Maestro Canterino lasciò cadere volutamente il discorso. I suoi occhi gialli fissarono per un attimo l'allievo. «Ad un patto, però, finirà come vogliamo noi», attaccò con aria di sfida. Bello. Bello, bello. Bisogna che mi metta a leggerlo dall'inizio alla fine. Perché è molto vario, quello sì. Sì? Sì. Insomma, è una, come dicevo prima, una bella fantasia, Mauro. Bene, adesso ci ascoltiamo la quarta canzone, che è cantata da Giorgia ed è intitolata, è una delle ultime canzoni, insomma, è molto recente. È L'amore che conta. Gli errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più, ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai, dove cammini tu? Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. Amore che conta, non solo i numeri e neanche i limiti. Continuiamo il racconto dell'abbandono della maschera. Come cade dalle nuvole? Penso che entrambi abbiamo parecchi sassolini da toglierci. Il machiavellico Arzillo ci ha trattato come due pacchi postali, elidendo giorno dopo giorno la nostra personalità. Come si suol dire, la vendetta va servita su un piatto freddo, e questo è ciò che faremo. Per approdare a Port Said ci vogliono ancora 2 o 3 giorni di navigazione, poi ci sarà il nostro ultimo concerto. Nel frattempo penseremo al da farsi. Vedrai, chiuderemo questo capitolo nel modo più inaspettato. Mi affido a lei, maestro. No, ti sbagli. Sei tu l'attore principale, quindi spetta a te terminare l'opera con un do di petto degno del miglior Palmiro. Durante il tragitto da Creta a Port Said ci fu uno spiacevole intoppo. Nella notte Palmiro fu colto da una violenta febbre, delirava. Il mattino, verso le 11, a poche ore dal concerto, maestro Tiralongo, Frank e il truccatore andarono nella cabina per i primi preparativi. Trovarono il ragazzo disteso sul letto grondante di sudore. Rimossero la tenda dell'oblò. Un raggio di sole accese il suo volto. Aveva un pallore lunare. «Che ci fai ancora a letto?» chiese indignato Frank, cercando di minimizzare. Tiralongo si avvicinò al letto, gli poggiò la mano sulla fronte e la ritrasse subito. «Arzillo, il ragazzo ha la febbre. Sta male. Necessita un dottore». «Ora non è possibile. Non sarà certo una febbricola ad abbattere questo lottatore del palco», ruffianò sapientemente Frank. «Insisto», ribatté il direttore con fermezza. «Senta, Tiralongo, abbiamo lottato e cercato questo istante. Oggi pomeriggio, al teatro di Port Said, saranno radunate tutte le celebrità politiche e artistiche di mezza Europa per l'anniversario del 17 settembre dell'apertura dello Stretto di Suez. Per nulla al mondo rinuncerò a questo evento», inveì Frank. Palmiro raccolse le sue forze sedendo sul bordo del letto. «Il signor Arzillo ha ragione. Sarà un concerto magnifico, indimenticabile, una sorpresa per tutti», disse. «Che le dicevo, Tiralongo, lei vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, un po' di ottimismo per Diana». Tiralongo, fra l'incudine e il martello, a malincuore soprassedette, ma volle comunque sincerarsi delle reali condizioni del ragazzo. «Palmiro, cerca di essere sincero. Te la senti?» «Certo, senza alcun dubbio. Dopo il concerto chiamerò un dottore, se serviranno più giorni di riposo. Ti saranno concessi. Va bene, ma ora procediamo con la maschera. Voglio sia più bella possibile». Arzillo contemplava la scena, scelse la giusta occasione per intervenire, espletando argutamente la sua arroganza, scoccando un fendente preciso senza possibilità di replica. «Vedete, Tiralongo, il guaglione è tosto. Voi, con tutto rispetto, sapete solo belare». Aprì la porta e, prima d'accomiatarsi, ordinò: «Vi voglio nel teatro dietro le quinte alle 15 precise. Non un minuto di più, non uno di meno. Arrivederci». «Saremo puntuali a sua completa disposizione», rispose Palmiro. «Bravo, bravo guaglione, tu mi piaci», terminò accarezzandosi gli unti capelli. Al maestro suonarono ipocrite quelle parole appena pronunciate. Pensò che forse il ragazzo cogliesse al volo l'opportunità per sentirsi accettato. È bella questa ultima frase. L'accettazione è una cosa estremamente difficile. Difficile. Guarda che il non sentirsi accettati è foriero di gravi problemi, soprattutto quando si è all'inizio della vita. Ti dà insicurezza, ti dà malinconia, ti dà... Bene, allora Mauro, hai scritto questo bel libro, questa bella favola. E prima hai scritto l'orologio a cronometro. Ecco, ci vuoi spiegare un pochino di che cosa parla questo orologio a cronometro? Io l'ho letto, ma... Sì, l'orologio a cronometro è un romanzo in parte autobiografico. Dico in parte perché parla di un bambino di 4 anni a cui manca il papà, e improvvisamente... e come vive il senso di morte questo bambino, cioè il senso di lui, la morte non la concepisce ancora, per lui l'assenza è un abbandono. E allora si svolge proprio a cerchi questo romanzo, dapprima lievemente con dei giochi di società, poi il cerchio si stringe sempre più e si arriva al nocciolo, cioè colloquio con il padre. Un padre immaginario che gli appare una notte, dove lui espleta tutta la sua, il suo rancore e tutto ciò che gli manca di questo padre. Sì, gli manca proprio l'affetto del padre, e la presenza del padre. La presenza del padre, sì, certo. Il suo esempio, il suo tutto, insomma. Sì, perché i maschi specialmente si identificano molto nel padre. Certo, poi questo padre, Gino, appunto mio padre, era un ragazzo, perché era un ragazzo ancora, una bella persona, con molta fantasia. Ah. Quindi era facile per lui farmi dei giocattoli, ma li faceva proprio manualmente. Cavalli a dondolo, trenini, tutte cose fatte con il legno. Come si faceva una volta, come proprio l'arte, sì, manuale. Esattamente. Mm-hmm. Altro che i giocattoli sofisticati di oggi. Sì, sì, made in Cina. I bambini, c'è una cosa che i bambini li ricercano, questi giocattoli manuali, quelli che sono produzione proprio delle mani di un congiunto, di un amico, cose di, sì, questo tema. E poi, sai, non ti trasmette solo il giocattolo, ti trasmette anche la fantasia, l'affetto, e l'immaginazione, certo, l'immaginazione anche, che è una cosa importantissima. Esatto. Quindi forse anche questa immaginazione mi è servita più tardi per, diciamo, creare qualcosa. Ma in sostanza libri, questo orologio a cronometro, cos'era? Un orologio creato da papà? Era un regalo, un obolo, un qualcosa che mio padre ha lasciato. Questo l'ho saputo per mezzo dei racconti di mia madre, che prima di morire mio padre l'ha regalato alla mamma, a mia madre, dicendo di consegnarlo a me come suo dono. Come suo dono. E ce l'ho ancora. È fermo alle 11:15 di un famoso giorno e non ho cambiato mai quell'ora. Non so neanche se funzioni. Sì, avrà un meccanismo. Sì, era vecchi orologi a cronometro della Guardia di Finanza degli anni 40-50. Mm. Pensa un po'. Che ha un valore effettivo straordinario, sì, sì, naturalmente. Quei padiglioni. Sì, quei grandi. Sì, sì, esatto. Che potevi cucinarci un uovo sopra. Ecco. Lo so che erano orologi. Erano molto evidenti. Era caricabile, chiaro, ogni 8. Sì, sì, a mano. Sì, sì, appunto, quegli orologi. Ah, io sono tanto amante delle cose di una volta, vabbè. Vuoi che leggiamo un pezzettino anche di questo libro? Io proporrei magari di fare prima, di mandare prima la canzone. Ah, benissimo. E poi... Ai suoi ordini, signor Antonio. Allora, vi propongo la nevicata del 56, anche se quest'anno nevi non si è vista mai qui. Ne parlo lì della nevicata. Come? Ne parlo nel libro. Ah sì? Sì. Ah. Vabbè, e questa canzone, come penso che molti si ricorderanno, è cantata da Mia Martini. La sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili, poche. Allora. Le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella. Oh, Mary, tu. Oh, molto più di così. Com'è? Com'è? La vista mai è zitta poi la nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida, tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli, na na, na na. Ed eccoci di nuovo in studio con un brano da L'orologio a cronometro. Non avevo voglia di dormire, ma come avrebbe potuto? Nella sala d'aspetto quella notte c'era troppo silenzio e questo dava l'input ai pensieri. Si sentiva un pugile alla decima ripresa, a bordo ring, spossato, battuto, senz'altro desiderio di combattere, e l'avversario gli si stagliava di fronte arcigno, viscido, pronto a sferrare l'ultimo colpo. Doversi alzare e continuare a combattere, più che un obbligo ora, era un dovere, per i figli, per la moglie ancora giovane, per lui. «Allora alzati», disse a se stesso, e si alzò. Posò i gomiti sul piccolo cordolo del davanzale e guardò fuori. Lontano, oltre i tetti, una riga più chiara avanzava lenta. Sembrava quasi che un pennello nascosto dietro le ultime gobbe delle colline uscisse a tratti a dipingere lembi di luce. L'alba arrivava come ogni giorno, come sempre, una frazione di vita in quell'attimo così straniera e lontana. Eppure, pensò, c'erano insetti che completavano la loro vita nell'arco di poche ore. I più fortunati in un giorno, forse di più. Gli venne in mente il padre, poi suo nonno, costretto in una casa di cura. Così succedeva che i vecchi faticavano a morire e i giovani, a volte, faticavano a vivere. Che strano destino! I pensieri seguitavano a folate, fuggenti, frettolosi, apparentemente senza logica. Quei campi lontano, appena dipinti, li ricordava ancora, assomigliavano ai suoi. Quando era bambino il padre Ettore aveva della terra, una buona terra, in un paese a pochi chilometri da Treviso, Canizzano. Abitavano in una grande casa colonica ed erano circa una cinquantina, la sua famiglia composta di 10 persone, più zii e cugini. Alla mattina si alzava presto, mangiava in fretta e prima di andare a scuola aiutava la mamma Caterina ad apparecchiare la tavola per i fratelli minori. «Begli obblighi e bei tempi», disse sottovoce. Poi arrivavano i giorni d'estate e con il fratello Rodolfo correvano lungo il tratturo che conduceva in riva al fiume. A volte, seduti sulle basse rive melmose, ascoltavano in silenzio il gorgoglio dell'acqua, il lieve stormire delle fronde, l'alzarsi improvviso di qualche germano reale nell'aria che odorava di muschio e favole notturne. Strana vita, buffo rincorrersi a ritroso degli anni, questo curioso guardare alla sorgente verso ovest, verso Casa Corba, da dove arrivavano le isole galleggianti d'erba, appena distinte dal vago chiarore dell'acqua. Sapeva già allora che, come quella corrente e le isole, anche lui sarebbe andato lontano, oltre Treviso, di là del mare, perché la vita l'aspettava. Rodolfo e lui si alzavano quando il roboante rumore della trebbia si avvicinava minaccioso, incurante della quiete e della limpida luce che scopriva l'oro del grano per l'ultima volta. Poi i campi si sarebbero trasformati in breve in una tabula rasa. Un luglio come tanti, un mese che non sarebbe arrivato più, o forse sì, ma da godere fra queste mura dell'ospedale di Padova, finché il male avesse avuto il sopravvento, portando via le messi di quei 46 anni non ancora compiuti. Nella sala d'aspetto ritornò improvviso il silenzio e il caldo opprimente. Dai vetri appannati vedeva il giorno nascere. Era lo stesso d'allora, altrettanto nuovo, altrettanto diverso. «Allora alzati», ripeté dopo un po'. Prima della tabula rasa, aggiunse quasi distinto, mentre nella corsia sentì avvicinarsi i primi bisbigli degli inservienti ed era già mattina. Decise di ritornare a letto, percorse ciabattando il tratto che lo separava dalla sua camerata, si intrufolò sotto le lenzuola, aspettò il risveglio di Berto. In quel momento l'orologio segnava le 6 in punto. Accarezzò la cinghietta di pelle nera, quindi passò l'anulare sotto di essa, roteando attorno al polso. Ebbe per l'ennesima volta la conferma di quanto fosse dimagrito. Subito dopo slacciò l'orologio cronometro e, posandolo teneramente sopra il comodino, disse sottovoce: «Lo regalerò a mio figlio più piccolo, affinché possa ricordarsi di me per sempre». Il tono della sua voce era calmo e dolce. Girò il capo sul cuscino, sentì l'odore di pulito della federa, socchiuse gli occhi. Il sonno imminente aprì la porta ad un nuovo mondo. Commovente questo pezzo, veramente. Io ricordo quando l'abbiamo presentato, che te l'ha ripresentato il dottor Piazza, cos'era, nel 2000? Nel 2004. No, la prima volta, la seconda volta, ti ricordi? Sì, nel 2009. Ah, ecco, perché... Alle Case Piavone. È una cosa molto, molto, molto recente. Sì, Alle Case Piavone. È che proprio la... L'ha presentato proprio con gusto, come, proprio ha fatto, dopo ha dato l'impressione di quanto apprezzava questo tuo libro, di quanto veramente. Sì. Comunque, diciamo che è una memoria di tempi lontani che sembrano lontani, ma epoche in realtà si sono consumate in pochi anni, si è consumato il tramonto della vita contadina. Poi la vita si ripete continuamente, i dolori anche le gioie pure, altre trasformazioni in atto. Sì, tante volte anch'io dico, beh, anche lo stesso clima, per esempio, che tanto diciamo, ma invece io penso che magari 100-150 anni fa chi ci dice che magari non ci siano stati dei momenti che il clima era così un po' variabile, un po'... Corsi e ricorsi. Solo che adesso... Storici e geografici. Solo adesso. Che adesso il clima è inquinato, ecco. Questo purtroppo in molti sensi, non solo in senso meteorologico. Anche nell'anima. Bene, allora, siamo arrivati al termine. Ma volevo chiedere solo una domanda. Oltre al prossimo libro di poesie che... fra poco pubblicherai, cos'è che anche qualche altro romanzo hai in mente? Di no, un'altra di poesie che Evasamente, che l'ho già scritto, che parla di mia madre. Ho capito, sì, è vero. Vabbè, allora Mauro, noi ti ringraziamo perché è stato veramente un piacere averti qui. Molto piacere. Ecco, grazie leggere a voi, adesso la vostra bella voce soprattutto. Che vi invidio. Ringraziamo per l'apprezzamento. Ci sono tutte le donne che quando sentono la voce di Antonio, non vogliamo esagerare. Ringraziamo comunque per tutto quanto, ringraziamo tutti gli amici, le amiche e gli amici di essere state con noi e diamo appuntamento alla prossima volta. Allora, anch'io ringrazio anche il nostro Mirko che oggi ci ha fatto da regista e così assieme a Mirko, a Antonio e a Mauro vi diciamo buonanotte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.